Sono le ore 8 e 58 di mercoledì 5 marzo 2025 e mentre mi rendo conto che probabilmente in alcuni degli episodi che hanno preceduto questo devo aver detto 2024 invece che 2025, per qualche ragione devo essere rimasto imprigionato in quell'anno. Oggi molti giornali, molte radio, molte televisioni già dalle prime ore del mattino salutano e commemorano soprattutto la scomparsa di Bruno Pizzul, un grande personaggio del mondo dei media che diciamo è l'ultimo rappresentante della fase epica del racconto del nostro sport attraverso i media. Ultimo direi di una triade leggendaria, quella avviata diciamo quasi insieme alla radio da Niccolò Carosio negli anni 30 e 40 e poi proseguita appunto da Martellini a partire dalla fine degli anni 60 per poi approdare a Pizzul. Una fase epica, forse ancora un po' libera dai condizionamenti del calcio vissuto come industria, che quando poi prese il sopravvento non riuscì a dare la stessa forza ai commentatori della nazionale. Bisogna fare una premessa. In qualche modo esistono delle gerarchie, cioè esistono i commentatori sportivi. Però il commentatore della nazionale è una figura in Italia quasi sovrannaturale, cioè entra automaticamente nella nostra cultura. Spesso la voce dei telecronisti della nazionale entra addirittura nei film. E vengono anche spesso chiamati a interpretare dei cameo di se stessi, perché evidentemente ce n'è bisogno, sono parte della vita della nostra società. Ecco, loro sono al di sopra di una, diciamo, di una linea, potremmo dire una linea tricolore, e al di sotto della quale invece si agita tutto un mondo di personaggi che fondamentalmente hanno come scopo quello di provare disperatamente a entrare nell'immaginario collettivo, spesso anche con una terminologia che vorrebbe essere una firma, no? Pensiamo appunto a personaggi come i telecronisti che si sono formati in quegli stessi anni nelle radio e TV locali romane, molto importanti dal punto di vista naturalmente del racconto del calcio, come Piccinini con la sua sciabolata, con Michele Plastino, con i suoi primi veri storytelling che vanno al di là della cronaca calcistica. E ecco, cercano in qualche modo di trovare una loro statura. Per certi versi ci riescono, ma sempre all'interno di un meccanismo che è soprattutto commerciale, industriale, mentre Martellini appartiene alla nostra cultura a prescindere da tutto, così come naturalmente anche Carosio e anche Pizzul. Se dovessimo fare proprio una piccola storia del loro impatto sul nostro racconto sportivo, potremmo dire che l'era di Carosio è l'era della retorica, quella di Martellini è forse quella della responsabilità e mi verrebbe da dire anche della dignità, e infine quella di Pizzul è forse l'era in cui il calcio approda definitivamente in una legittima e rivendicata tifoseria. Sicuramente Carosio la sua retorica se la porta dietro dagli anni in cui, insomma, cominciava a commentare le straordinarie imprese di una grande nazionale, quella di Vittorio Pozzo, che però si svolgevano all'ombra di un regime, insomma, propagandistico, che faceva appunto dei media uno strumento potentissimo. E quella stessa retorica in qualche modo se la porta dietro anche nel dopoguerra, no? Compreso in qualche modo l'odio ancora malcelato verso gli inglesi. Inglesi che in epoca carosiana, comunque gli italiani non riescono ancora mai a battere veramente, no? Ed è buffo perché lo stesso Carosio in realtà aveva uno stile per certi versi all'inglese, e si era formato sullo stampo del telecronista della BBC, e quindi possiamo dire che furono anni di amore e odio nei confronti, diciamo, dei maestri del calcio, ma anche dei maestri dei media pubblici, che erano appunto per tutti in Europa gli inglesi. Carosio racconta le vicende epiche della nazionale degli anni 30, che vince un mondiale un po' apparecchiato in casa, a proposito di propaganda, ma poi vince, si conferma vincendo anche le Olimpiadi del 36 a Berlino, che furono forse le ultime in cui andavano davvero le nazionali più forti, quindi una sorta di mondiale tra due mondiali. E poi ci fu quello del 38 che, diciamo, sgombra il campo da qualsiasi dubbio sulla forza, sulla straordinaria bellezza anche di quella squadra, che riuscì a vincere i mondiali, verrebbe da dire, in casa del nemico, i mondiali di Daladier del 38, sconfiggendo tra l'altro anche la Francia e poi il Brasile, non una squadra qualsiasi, e infine in finale addirittura l'Ungheria, che non era ancora la grande Ungheria degli anni 50 e 60, però era già una signora squadra. Poi la guerra naturalmente in qualche modo cancella tutto, il calcio italiano viene anche cancellato dalla tragedia di Superga a un certo punto, e quindi viene azzerato e sconta questo azzeramento con una serie interminabile di mondiali persi, il 50, il 54, poi il 58 dove nemmeno ci qualifichiamo, il 62 dove non solo veniamo sbattuti fuori ma facciamo anche una figura terrificante con la famosa battaglia di Santiago, e lì anche l'arbitro inglese ci mise del suo, come sappiamo, per chiudere, diciamo, in bellezza con l'umiliazione finale, cioè la sconfitta con la Corea del Nord a Middlesbrough, cioè nel Mondiale 66 in Inghilterra. Ed è buffo perché appunto Carosio, col suo racconto, che stentava, diciamo così, ad adattarsi al nuovo mezzo televisivo, Carosio era un radiocronista straordinario nel costruire mondi che forse neanche esistevano, e però di fronte al riscontro, al suffragio dell'immagine, soffriva anche nel ritmo. Basta vedere le sue telecronache appunto del 66, dell'Italia del 66, per rendersi conto che da un lato subiva il potere dell'immagine e la fine dell'immaginario, e si ritrovava magari solo a dire i nomi dei giocatori che entravano in possesso del pallone. Forse in Rai qualcuno se ne rese conto, e quando nel 68 ospitammo l'europeo, che poi un europeo che poi vincemmo sia la semifinale sia la finale, fu commentata invece dall'astro nascente del telecronismo italiano, e cioè Nando Martellini. Però la situazione era ancora contrastata, perché in realtà le prime partite del Mondiale del 70 furono commentate di nuovo da Carosio, a cui fu data una sorta di ultima chance, che però si bruciò col famoso scandalo in cui se la prese con un guardaline etiope, e semplicemente per il fatto di rimarcare appunto la nazionalità del guardaline in questo modo venne fondamentalmente estromesso dalle telecronache per via del caso politico, della protesta dell'Etiopia. L'Italia si portava dietro naturalmente tutti i sensi di colpa e tutte le responsabilità dei massacri che aveva compiuto in Abissinia. Risultato: dai quarti di finale torna di nuovo Martellini. Io non so se si trattò di un prematuro sussulto di political correctness, ciò che fu esercitato in quel momento. Fatto sta che poi Martellini non venne più tolto da quel microfono e da quella poltrona, e incarnò la rinascita, diciamo, del calcio italiano, forse un po' tardiva rispetto al boom economico, però insomma la vittoria del 68, la finale dell'Azzeca del 70, il mondiale del 74 dove eravamo partiti da favoriti e poi invece usciamo malamente, ma poi di nuovo i piedi buoni, il calcio di Bernardini che viene traghettato verso Berzot, che forse confeziona il suo il suo capolavoro proprio con il calcio che portò in Argentina nel 78, avremmo forse dovuto vincere quel mondiale prima di quello in Spagna. Arriviamo invece solo quarti, il mondiale lo lasciamo ai generali Galtieri e Videla, e poi nell'82, diciamo, in qualche modo il cerchio si chiude con quella squadra davvero epica, con un livello di partecipazione anche politica e delle istituzioni del popolo italiano, e soprattutto anche l'importanza di quel mondiale per uscire veramente da anni molto molto difficili, che però poi ci traghettarono in anni, diciamo così, non necessariamente fecondi per la nostra cultura, come sappiamo, gli anni 80 e gli anni 90. Ci fu poi il mondiale un po' stanco in Messico nell'86, l'ultimo commentato da Martellini, e il passaggio di consegna a Pizzula avviene con il mondiale del 90, e arriviamo finalmente a Bruno Pizzul. Bruno Pizzul si rende conto che non può ignorare quello che succede nei media, che nel frattempo si sono moltiplicati intorno a lui, sia le radio nazionali e le TV nazionali, sia soprattutto le radio e TV locali hanno già introdotto la figura del telecronista tifoso, e in qualche modo Pizzul non può non tifare in modo più esplicito per la nazionale, senza mai perdere l'obiettività naturalmente, però sicuramente con tutta quella emotività e quella foga di cui gli italiani evidentemente avevano bisogno in questa fase liberatoria, no? che furono gli anni 80, poi anche gli anni 90, senza però rendersi conto che venivano traghettati nel calcio industriale, a cui lo stesso Pizzul dovette in qualche modo adattarsi, con fatica, perché era una persona con una grande dignità professionale e che cercava in tutti i modi di difendere la qualità del proprio lavoro. Fu l'ultimo a non essere travolto appunto nel tritacarne della vendita di bastoncini di pesce che avrebbe caratterizzato tutto il racconto dello sport italiano e internazionale negli anni successivi, ed è per questo che lo salutiamo con grande affetto. We'll be right back.